La Anthony Perkins Productions presenta A Rebours. Marginali d'ogni tempo e d'ogni arte, o quasi. A rebours. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio ZAM che sono in ascolto della terza puntata di A rebours. La puntata di stasera è un po' un imbroglio, ma a fin di bene. Stiamo parlando infatti questa volta di un marginale del cinema che non lo è, perché si tratta, e non è solo una mia opinione, di uno dei grandi maestri del cinema mondiale degli ultimi decenni. Solo che in Italia, solo dal 13 di febbraio e online, è stato distribuito il suo ultimo film dopo un'assenza di praticamente più di un decennio, cioè dai tempi del mitico Zaito Ishii, che è il suo ultimo film che è andato ufficialmente in sala. I più arguti di voi avranno capito che sto parlando del maestro giapponese Takeshi Kitano. Anzi, stavo controllando adesso in diretta sulla rete, Zaito Ishii era del 2003, quindi 22 anni in cui il maestro ha continuato a fare cinema praticamente ignorato dall'orripilante distribuzione italiana. E quindi stasera potrete, spero, deliziarvi un po' le orecchie con spezzoni di suoi film e altri contributi di vario genere, come sentite immediatamente. Dammi la pistola. Giochiamo. A cosa, signore? A morra cinese. Non ti va di giocare? Eh? Sì. Bene. Sei il primo. Che gioco è? Avresti potuto ammazzarmi. Giochiamo. Carta, sasso, forbice, su. Di nuovo tu. Aspetta un momento, per favore. Giochiamo. Ok, giochiamo. Il colpo in canna. Giusto. Allora giochiamo. Carta, sasso, forbice. Hai tocca perso. A te. Ho perso. Per favore. No. Non ci posso credere. Come? Era scarica. Ci hai imbrogliato. Stai attento, chiacchierone. E tu sei un cacasotto. Yeah. regista, sceneggiatore, montatore cinematografico, comico e conduttore televisivo, poeta, scrittore di successo, addirittura pittore. È veramente difficile trovare una figura così poliedrica da noi in Occidente come quella di Takeshi Beat Kitano, un personaggio che nasce nella comicità Manzai, che da noi è stata portata dalla Jalappas e dal suo mai dire Banzai, che presentava estratti dal suo programma Takeshi's Castle, ma che in Giappone lo ha reso uno dei personaggi più famosi e importanti, mentre invece il suo lato cinematografico impegnato è più nato a noi europei e fino a quel meraviglioso capolavoro, quei due meravigliosi capolavori che sono Dolls e Zaito Ichi, era nato anche in Italia, dove ha vinto anche con il fantastico Anabin un festival di Venezia. Cosa sia successo dopo, non per Kitano che ha continuato a fare film grandiosi, che cosa sia successo alla distribuzione italiana che lo ha reso marginale, tanto da vedere un film distribuito ma solo online dopo 22 anni di presenza solo nei festival, è per me, che sono un grande ammiratore di quello che ritengo essere uno dei geni contemporanei del cinema, veramente un mistero. Sono i vagabondi legati. Thank you. La voce secondo la quale era comparso un duo di comici perlomeno stravagante, i Two Bits, si diffuse a partire dei camerini dei teatri di varietà. Una volta che la voce si sparse, tutto andò molto velocemente. La nostra reputazione crebbe all'istante e nell'ambiente degli artisti di Asakusa, il nome Two Bits veniva spesso pronunciato con un tono di ammirazione. Cosa sorprendente, la sala era piena, non di clienti, dei nostri colleghi di Asakusa. Quando arrivava il nostro momento per entrare in scena, i fantasisti che dovevano aspettare il loro turno nei camerini sotterranei si ritrovavano invece al gran completo in sala per assistere al nostro spettacolo. Non riuscivo a comprendere perché alcuni di loro applaudissero, dato che eravamo loro rivali. Ma, nonostante la nostra reputazione, i direttori dei teatri non vollero riconoscere immediatamente il nostro successo. Continuavano a relegarci tra i primi passaggi per attirare i pochi spettatori. Eravamo sempre accolti con freddezza e venivamo trattati come comici di seconda categoria. Inoltre, gli attori che ci avevano preceduto nel genere ci perseguitavano come i cristiani giapponesi del XVII secolo. Forse perché avevano paura di noi e dicevano che non dovevamo essere ammessi nell'associazione dei comici di Manzai. Non potevano tollerare la nostra concezione di quell'arte. Paradossalmente, più venivamo trattati con disprezzo e venivamo bersagliati, più aumentava la nostra popolarità. Più agivamo di testa nostra, facendo quello che ci passava per la mente, più conquistavamo fama e venivamo riconosciuti dal pubblico. Capitava addirittura che degli spettatori abbandonassero la sala una volta terminato il nostro numero. La situazione era molto spiacevole per gli artisti che dovevano entrare dopo di noi, e decisamente scortese nei confronti dei fantasisti, quelli che venivano chiamati grandi maestri, che attendevano il loro turno. Gli altri artisti senza dubbio ci guardavano con acredine, ma l'arto dello spettacolo dipende solo dal riscontro di ciascuno. È normale che chi ha successo passa davanti a chi non ne ha. Chi ha le qualità va avanti rapidamente, mentre gli incapaci vengono progressivamente eliminati. Solo gli artisti di talento ce la fanno. È la regola del mondo dello spettacolo. Takeshi Beat Kitano, Asakusa Kid. Credevate di poterci sfuggire? Cosa volete fare? Iniziare una guerra? Vi faremo fuori! Provateci! Avanti! Rilassatevi, scherzavamo. Discutiamo tra gentiluomini, sta bene? Noi vi daremo il territorio. Tanto quei tipi non ci piacevano. D'ora in avanti avrete voi il controllo. E sarà tutto come prima. Non avete obiezioni da fare, vero? Non ci mancherete. D'accordo, accettiamo. Che passa? Gli hai detto che potranno controllare il territorio. Perché vuoi darlo a questi fottuti giapponesi? E perché no? Tanto li massacreremo tutti in ogni caso. テーブルの下触ってみろ。 걔는 어떡하나 걔나. Chi hai detto fottuto giapponese? Da ridere di Takeshi Beat Kitano. Sono un attore comico, ma non mi va che si rida smoderatamente di me. Non è così buffo da far ridere al primo sguardo. Né credo sia così malfatto il mio volto. Sono solo un po' ingobbito, con le gambe un po' storte, ma credo che si trovino ovunque dei giapponesi con quell'aspetto. Eppure c'è chi ride indicando il mio volto, il mio aspetto. Vorrei che non ridessero. Io non sono un grande Gulliver, né un piccolo nano. Sono semplicemente un attore comico. Mi piacciono le risate, ma non perdono chi ride di me. Se tu sei in grado di perdonare chi ti indica e ride di te, se ti hanno sempre indicato e riso di te, e se hai tanto ingurgitato la tristezza della derisione, indica la gente e ridi di lei. Se ridono del tuo aspetto miserabile, del volto sgradevole, se ridono di te perché calvo, perché hai la nuca troppo piatta, puoi ridere della gente. Ma se non hai provato a essere indicato e deriso indiscriminatamente, allora non devi essere indicato e deriso. Io, che sono stato deriso da perfetti estranei, sempre più nel tempo indico la gente e la derido, perché sono un attore comico. Prego, attenzione con il gomito, chiaro? Forza, via! Stop! Tu, mettiti sotto. Non preoccuparti, ce la farà. Poi vai così, hai capito? Respira, prendi il fiato. Appena puoi colpiscilo col gomito, ma cerca di non farti vedere, chiaro? Stop! All'angolo! Coraggio, scendi! Togliti dalle parti! Lo massacro! Togliti dalle corde! Togliti dalle corde! Tieni su una manica! Calmo, aspetta! Ma capo, lo sta massacrando! Non può ancora farci! Spero che anche stasera abbiate gradito questo breve viaggio nei margini, che margini in realtà non sono. Del maestro Takeshi abbiamo udito, purtroppo solo udito, spezzoni da sonatine, l'estate di Kikujuro, di cui abbiamo sentito in realtà solo la colonna sonora, del maestro Joe Hisaishi, di cui sono gran parte degli altri pezzi che avete sentito, Dolls Brother e The Kids Retard. Avete sentito un pezzo anche dei Pizzicato 5 e adesso vi lascio con le Cibo Matto, che sono due gruppi giapponesi di qualche tempo fa, e vi do appuntamento tra due mercoledì con Arebu al prossimo mercoledì con un'altra puntata di Ulisse contro tutto. Buonanotte. Sweet. Yes, I'm cooking for my son and his wife. It's his 30th birthday. Pour berries into my bowl at the milk of 2 months ago. It's Mardi, mom, isn't it? I don't give a flying fuck about. It's food and of love. It's very sweet. À rebours.